silo ay io calanini che trilo uso si cole la son che le sono o va sia la punta punta di gonzo voglio in me awe in me si capi la maglio di genio.